Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Attentato a Parigi, il killer non era schedato come islamista, già arrestato a febbraio era stato poi rilasciato, la paura del terrorismo sulla campagna elettorale per l'Eliseo. Comportamento non etico, medico antivaccini radiato dall'ordine, il Consiglio di Stato legittimo l'obbligo dei vaccini a scuola. Del Grande incontra la delegazione italiana, detenzione del tutto illegale, dice l'avvocato turco. Targa Florio, gravissimo incidente, 2 i morti, gara sospesa. Serie A verso la Moviola in campo dalla prossima stagione, Champions va bene alla Juve che in semifinale trova il Monaco. Bentrovati ad una nuova puntata di Effetto Notte, 21.04, un saluto da Vincenzo Miglietta che vi parla, in regia Andrea Roccabella ed Alessandro Chiappini, in assistenza al programma Cristian Goldoni. Giornata intensa e ricca di notizie con in primo piano, lo avete ascoltato dai titoli, la Francia stretta tra il nuovo attentato di ieri sera sugli Champs-Élysées e le imminenti elezioni presidenziali. Partiamo allora da qui, era stato arrestato e poi rilasciato a febbraio il presunto autore delle sparatorie che ieri sera ha provocato la morte di un agente e il ferimento di altri 2. Inevitabili i riflessi sulla campagna elettorale per le presidenziali. Si scatena infatti la polemica politica con al centro la candidata del Front National Marine Le Pen che prende il lutto e chiede solennemente a Hollande il ripristino delle frontiere francesi. Il premier Cazeneuve l'accusa di strumentalizzare però senza vergogna la paura per fini elettorali. Dagli Stati Uniti il presidente Trump commenta l'attacco avrà conseguenze sul voto. Ma sarà veramente così? Ascoltiamo il servizio. L'attacco di ieri sera sugli Champs-Élysées avrà un impatto sul voto del primo turno delle presidenziali domenica? Al di là dell'orrore delle rituali parole di condanna e di solidarietà, è questa la domanda che tutti si fanno all'indomani dell'uccisione a sangue freddo di un poliziotto, l'ennesima nel cuore di Parigi. Non dovrebbe avere conseguenze sugli elettori che già hanno fatto la loro scelta, potrebbe invece averla sugli indecisi e sui potenziali astensionisti, due gruppi in forte aumento rispetto ai dati storici delle presidenziali francesi. Si tratta di circa 6 milioni di elettori che se dovessero entrare in campo anche solo in piccola parte potrebbero in effetti modificare le posizioni immaginate dai sondaggi, visto che almeno 3 dei 4 candidati principali sembrano racchiusi in una manciata di consensi. Sulla carta l'attentato dovrebbe favorire la leader dell'estrema destra Marine Le Pen con il suo programma forcaiolo e forse ancora di più l'esponente della destra François Fillon che ha dalla sua la rassicurante immagine di un solido politico di lungo corso e danneggiare il centrista indipendente Emmanuel Macron, ritenuto da una parte dell'opinione pubblica troppo giovane e inesperto. Ma quest'ultimo ha imparato bene, in fretta, la sua reazione è stata all'altezza degli eventi. Marco Bussanera, Radio 24, Sole 24 Ore, Parigi. E da Ottawa, dove ha incontrato il premier canadese Trudeau, il presidente del Consiglio Gentiloni ha espresso piena solidarietà alla Francia e ha ribadito la necessità di non farsi influenzare dalla paura. Dobbiamo contrastarlo insieme e questo è stato anche uno degli argomenti della nostra conversazione, la collaborazione nell'Alleanza Atlantica, la capacità di contrastare il terrorismo. E io ho parlato con il presidente Hollande rinnovandogli la nostra solidarietà. Io mi auguro che non ci sia nessun particolare impatto di questo episodio sull'orientamento dei francesi al voto. E cambiamo argomento. In Italia ora, nel luglio 2016, l'annuncio della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, i camici bianchi che sconsigliano le vaccinazioni infrangono il codice deontologico e vanno incontro a procedimenti disciplinari che possono arrivare alla radiazione. Oggi, a quasi un anno di distanza, arriva la prima radiazione di un medico antivaccino e sarebbero almeno 2 i provvedimenti aperti a carico di professionisti antivaccini a Firenze e Venezia. Si ferma anche davanti al Consiglio di Stato, investito per la prima volta della questione, la richiesta di 2 famiglie di Trieste contro il comune che a novembre ha introdotto l'obbligatorietà della vaccinazione per l'inserimento nelle graduatorie dei nidi e delle scuole di infanzia. E ci spostiamo ora in Turchia. Questa mattina Gabriele Del Grande, trattenuto in un centro di identificazione a Mugla, ha potuto incontrare la delegazione consolare italiana. Ci risulta che Gabriele stia bene, ha detto il ministro degli esteri Alfano. Sta facendo uno sciopero della fame, nutrendosi solo di liquidi. Ha comunque l'assistenza di un medico che ho richiesto e ottenuto dalle autorità turche. Il documentarista questa mattina ha incontrato per la prima volta la delegazione consolare italiana e il suo legale nel centro di detenzione amministrativa di Mula, nella Turchia sudoccidentale. Il suo avvocato Taner Kılıç ha dichiarato, dopo averlo visto, non c'è nessun impedimento giuridico al rimpatrio, è un provvedimento punitivo. Delgande è stato fermato nella provincia meridionale di Hatay, vicino al confine con la Siria, perché si trovava in una zona alla quale non era consentito l'accesso. Il documentarista si trova ora da 12 giorni in stato di fermo amministrativo e al momento contro di lui non è stata formalizzata alcuna accusa. Nei suoi confronti sarebbe in atto una procedura di espulsione, ma i tempi non sono certi. Il presidente del Consiglio Gentiloni ieri da Washington ha detto: siamo entrambi nella NATO, l'Italia contribuisce alla difesa della Turchia, pensiamo che tra noi ci debba essere collaborazione e confidiamo che tra le conseguenze ci sia la liberazione di Delgrande. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Immigrazione: una persona su cinque in Europa che nel 2015 ha acquisito la cittadinanza europea l'ha ottenuta in Italia, che risulta quindi essere il primo paese europeo per numero di nazionalità concesse. E sul tema migranti e sul ruolo dell'Italia non si ferma la polemica politica. Stavolta sono i migranti ad alimentare il duello PD Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo denuncia nel blog il ruolo oscuro delle ONG che soccorrono in mare sistemandosi al limite delle acque territoriali libiche e cita un'inchiesta aperta dalla Procura di Catania. Dall'altra parte dell'oceano gli risponde il Premier Paolo Gentiloni in visita in Canada. Bisogna guardare con rispetto alle ONG che svolgono compiti umanitari nel Mediterraneo. La magistratura indagherà, ma attenzione a gettare un'ombra sulle organizzazioni umanitarie. Intanto arrivano i dati: dall'inizio dell'anno 42.974 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare, 962 sono morti, lo rende noto a Ginevra l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. L'85% degli arrivi è stato registrato in Italia, 36.703, ed anche il più alto numero dei morti, segnalato sulla rotta del Mediterraneo, 898. Ci sono anche le polemiche: secondo i dati Eurostat l'Italia è la prima a concedere la nazionalità e i tre gruppi in cima sono albanesi, marocchini e romeni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci spostiamo ora in Sicilia con il gravissimo incidente avvenuto alla targa Florio, due i morti. Potrebbe essere stato il fondo stradale sconnesso e anche il nevischio caduto nelle prime ore della mattinata a provocare l'incidente nel corso della seconda giornata della Targa Florio, una delle più antiche gare di rally del mondo. Secondo le prime testimonianze degli altri piloti e le prime ricostruzioni dei carabinieri, la BMW Mini Cooper della coppia Mauro e Gemma Mendolia, padre e figlia, che partecipava alla gara, avrebbe perso aderenza mentre percorreva un lungo rettilineo nel territorio di Snello, comune delle Alte Madonie nel palermitano, e dopo aver ha travolto Giuseppe Laganà, il commissario di gara originario di Lentini, che si trovava sul ciglio della strada. Morti sul colpo sia il pilota che il commissario, mentre Gemma, 27 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana, sempre nel palermitano. Inizialmente era stata annullata la prova speciale Geraci Castelbuono, ma poi la direzione di gara ha deciso di annullare la manifestazione. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Lombardia e Veneto voteranno lo stesso giorno, il 22 ottobre, per l'autonomia. L'annuncio oggi del presidente della regione Lombardia Maroni, l'invito a votare sì da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Lombardia e Veneto unite dal referendum consultivo per l'autonomia del 22 ottobre. 15 milioni di lombardi e veneti al voto contemporaneamente nelle due regioni nella stessa data. Una decisione comune dei due governatori leghisti della Lombardia Roberto Maroni e del Veneto Luca Zaia, presa dopo che non era stata fornita risposta dal governo alla proposta comune di un election day con le amministrative. Secondo Zaia è una spinta alle riforme dal basso. Due grandi importanti regioni come la Lombardia e il Veneto, che sono le prime due regioni per residuo fiscale a livello nazionale, che significa che sarà un grande segnale per quelle riforme che mai sono arrivate in questo paese e che a questo punto partiranno dal basso, partiranno direttamente dal popolo. Governo e PD avevano chiesto di trattare la maggiore autonomia e concordarla con lo Stato, cosa che comunque le regioni dovranno fare dopo la consultazione, risparmiando così i soldi del referendum. Ma Maroni replica: sono disposto a collaborare col governo se ho la certezza di arrivare a maggiore autonomia e maggiori risorse. E il sindaco di Milano Giuseppe Sala dice: avrei preferito un tavolo per evitare i costi, ma se si fa consiglio di votare sì. Il tema è giusto, dice, non appartiene alla Lega ma un po' a tutti, e il governo ha dato chiare aperture. Ma conclude Sala: il referendum è assolutamente inutile. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ultimo giorno per pagare con un po' di sconto tasse arretrate, multe e balzelli vari. Scade tra poche ore il termine per la rottamazione delle cartelle. Non pochi disagi presso gli uffici, alcuni presi d'assalto. Ascoltiamo. Sportelli chiusi, giochi fatti. Scaduto il termine ultimo per mettersi in regola con le imposte non versate, presentando a Equitalia le cartelle da rottamare senza andare incontro a sanzioni e interessi di mora. Filiali anche oggi prese d'assalto sin dalle prime ore della mattina, code da centinaia di persone per attese che in qualche caso si sono concluse con un nulla di fatto. Dalle 6 di mattina. Dalle 6. 20 minuti per prendere il numeretto, forse 30, e non so come andrà a finire. Sì, sono circa 2 ore e mezza. L'attesa è lunga. Un brutto momento. Insomma, con tutta questa gente. Chi ci porta l'acqua, il caffè. Moltissimi casi di multe arretrate e bolli non pagati e dunque tanti mea culpa, ma anche qualche accusa. Chi ha scelto di usare i canali telematici si è lamentato dei server più volte in tilt, ma da Equitalia fanno sapere che i canali di invio delle domande sono stati potenziati al limite delle possibilità tecnologiche. Intanto arriva anche la rottamazione delle liti pendenti. Questa è la novità prevista dalla manovrina di correzione dei conti, che prevede il passaggio di testimone tra la definizione agevolata delle cartelle e quella delle controversie tributarie. Il 30 settembre è l'ultimo giorno per presentare domanda. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Con un anno di anticipo rispetto ai programmi, la VAR, in altri termini la Moviola, sarà in campo nel campionato italiano di Serie A dalla prima giornata della stagione 2017-2018. Lo ha annunciato il presidente degli arbitri Marcello Nicchi. Aspettiamo l'autorizzazione dell'International Board, ha detto Nicchi al termine del Consiglio federale della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha deliberato anche la nomina del presidente federale Carlo Tavecchio a commissario della Lega di Serie A. Per quanto riguarda invece la Juventus, la Champions League ha conosciuto il nome della squadra che affronterà in semifinale. Gita premio nel Principato di Monaco, nel cuore della primavera. Somiglia tanto ad una favola il prodotto dell'impresa con il Barcellona. Che poi non è così, perché non sarà una gita, quella del 3 maggio, ma una semifinale di Champions League contro la squadra, il Monaco, rivelazione d'Europa e probabile vincitrice del campionato francese. E il premio che la Juventus vuole è ben più grande di un viaggetto in riva al mare della Costa Azzurra. Innegabile che l'urna di Nyon stavolta sia stata amica dei bianconeri, troppo forti di testa e maturi, da farsi un baffo del pericolo sottovalutazione di un avversario fresco, leggero e talentuoso. E perfino della cabala, incontrò il Monaco, ma ai quarti, anche 2 stagioni fa, quando poi andò in finale. Ma soprattutto francesi furono le semifinaliste dell'85 e del 96, rispettivamente il Bordeaux e il Nantes, e finì con la signora che alzava la coppa. Dall'altra parte si scorneranno all'ultimo sangue Real e Atletico Madrid. Questa è la strada che porta a Cardiff. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Queste allora le notizie più importanti della giornata, ne approfondiremo diverse. Ora il traffico e poi di nuovo insieme. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Attentato a Parigi, il killer non era schedato come islamista, già arrestato a febbraio era stato poi rilasciato. La paura del terrorismo sulla campagna elettorale per l'Eliseo. Comportamento non etico, medico antivaccini radiato dall'ordine, il Consiglio di Stato legittimo l'obbligo dei vaccini a scuola. Del Grande incontra la delegazione italiana, detenzione del tutto illegale, dice l'avvocato turco. Targa Florio, gravissimo incidente, 2 morti, gara sospesa. Serie A verso la Moviola in campo dalla prossima stagione, Champions va bene alla Juve che in semifinale trova il Monaco. E questi dunque i titoli di Effetto Notte. notte. Abbiamo ascoltato le principali notizie nel primo blocco della trasmissione. Ora procediamo all'approfondimento di alcuni temi e partiamo questa sera dalla Francia. Lo abbiamo ripetuto più volte nei vari GR del pomeriggio: era stato arrestato e poi rilasciato a febbraio il presunto autore delle sparatorie che ieri sera ha provocato la morte di un agente e il ferimento di altri due. Inevitabili i riflessi sulla campagna elettorale per le presidenziali, poco meno di 48 ore all'apertura delle urne. Di tutto questo parliamo insieme alla collega Raffaella Calandra. Buonasera Raffaella. Ciao Vincenzo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Raffaella, allora andiamo con ordine, partiamo prima da quello che sappiamo a circa 24 ore da quanto è successo sugli Champs-Élysées, della cronaca, del fatto di terrorismo, e poi approfondiamo un pochino anche i riflessi che vi potrebbero essere, ma già ci sono, a livello politico, sulla campagna elettorale. Beh Vincenzo, che dire, la prima cosa che innanzitutto ancora una volta ci tocca dire e ci tocca raccontare di una sorta di fallimento delle forze di sicurezza dell'antiterrorismo francese, perché come ricordavi Karim Cherfi, 39 anni, era una persona ben nota alle forze dell'ordine francesi, aveva avuto 15 anni di processi, di condanni, di soggiorni in carcere e aveva ogni volta mostrato chiaramente anche proprio la sua ostilità esplicita nei confronti proprio degli agenti, con una dichiarazione d'odio più volte raccontata, che ora emerge dai racconti anche di testimoni, quella di voler attaccare i poliziotti per rappresaglia per quanto stava succedendo in Siria. Ebbene, questa lunga storia anche di rapporti con la giustizia e di condanne non ha impedito che portasse a termine quello che ieri ha realizzato sui Champs-Élysées, l'attentato con la morte di un poliziotto che aveva Jugelé, 37 anni, il ferimento di altri due, un attentato che ha allungato sul voto francese ancora di più lo spettro del terrorismo. Quello che sappiamo di Karim è che appunto a febbraio, come ricordavi, era stato fermato ma poi rilasciato per mancanza di prove, nello stesso mese in cui avrebbe voluto andare in Algeria per sposarsi, ha raccontato il procuratore François Molen, che però soprattutto in una conferenza stampa ha fatto il punto su un aspetto che è importante. Sentiamolo. Je précise enfin que Karim Cherfi n'était pas fiché. Ha voluto precisare il procuratore che Karim Cherfi, nonostante diciamo questi segnali della sua vita, non aveva dato alcun segnale di radicalizzazione, al contrario di quanto invece nelle prime ore era emerso, cioè non aveva quella S che nell'ordinamento francese connota le persone appunto che sono a rischio radicalizzazione, che quindi potrebbero essere responsabili di attentati. Chiaramente le indagini sono ancora molto aperte e ancora molto da chiarire su quella rivendicazione che già ieri sera c'è stato, anche se c'è un testo che è stato trovato accanto al corpo del terrorista che sembra andare appunto nella direzione di Daesh. Resta da verificare anche la presunta pista belga che è emersa, ma i cui contorni non sono ancora del tutto chiari. Raffaella, ecco, prima di passare alla parte politica, questo attentatore è di fatto un lupo solitario, le armi anche da guerra che evidentemente ha utilizzato, si sa qualcosa di più sotto questo aspetto? Proprio queste armi sono l'elemento che in questo momento diciamo sono l'aspetto più importante da approfondire, perché il Kalashnikov con cui ha ucciso con due colpi alla testa il poliziotto, quindi una vera e propria esecuzione, ecco, non che sia così particolarmente difficile recuperarlo anche nel mercato nero delle armi, però diciamo è un tipo di attentato diverso rispetto all'attentatore di Nizza che con il camion si è lanciato sulla folla, o ad attentati compiuti con coltelli, cioè richiede come una organizzazione, una complicità, una rete di rapporti che probabilmente che è diversa dagli altri casi e che quindi va in questo momento esaminata, su cui si sta guardando anche il discorso della pista belga, cioè se possa aver avuto la complicità e l'appoggio di uno jihadista pare proveniente dal Belgio. Questo è un aspetto ancora poco chiaro. Nella conferenza stampa del procuratore, di solito più ricco di dettagli che abbiamo imparato a conoscere, ahimè, in questi attentati che si sono ripetuti in Francia negli ultimi anni, ha dato dettagli su questo aspetto, che resta un aspetto di sicuro importante. Sicuramente così, un quadro poco chiaro sotto l'aspetto delle indagini, un quadro poco chiaro anche sulle conseguenze che potrebbe avere questo attacco terroristico sul voto di domenica. Trump dice che questo voto potrebbe aiutare la Le Pen, secondo alcuni sondaggi la Le Pen sarebbe sopra di un punto. Il nostro corrispondente da Parigi, l'abbiamo ascoltato prima nel servizio, metteva un po' in dubbio che poi vi potrà essere questo effetto nelle urne a vantaggio della Le Pen. Raffaella, che sensazione abbiamo? Beh, staremo a vedere quello che succederà in questo primo turno di domenica, però come ricordavi un punto percentuale in più rispetto ai sondaggi di adesso non sono così tanto, cioè forse si pensava che un attentato del genere potesse dare una forza ancora maggiore alla candidata del Front National, Marine Le Pen, che già oggi ha soffiato molto sul fuoco, diciamo, di questo attentato, dando anche una notizia che poi il premier Cazeneuve ha aspramente criticato, dicendo che in Francia ci sarebbe, come possiamo assentire dalle sue stesse parole, un altro attentatore dell'ISIS. Oui. Questa è la voce appunto di Marine Le Pen, che rispondendo ad una domanda dice: sappiamo che l'ISIS ha mandato in Francia almeno un terrorista, temiamo altri attacchi ancora fino a domenica, e infatti ha chiesto anche la chiusura delle frontiere la Le Pen. E devo dire che una rinegoziazione di Schengen è stata auspicata anche dal candidato conservatore Fillon, mentre diversa è stata la linea, diciamo, di quello che resta il favorito Macron, l'indipendente Macron, ma di sicuro questo attentato sembra aver dato una scossa, anche se oggi hanno tutti sospeso i comizi previsti per la chiusura, però ha dato una scossa nel linguaggio anche rispetto anche alle azioni da compiere sul rischio terrorismo, che resta soprattutto una delle voci che peserà di più sul voto francese e poi soprattutto sul ballottaggio. Bene, bene, saremo a vedere. Grazie a Raffaella Calandra. Noi restiamo in Francia, abbiamo con noi Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University. Buonasera Vidino. Buonasera a voi. Ecco, le domandiamo subito, è possibile, perché questi fatti continuano ad accadere in Francia, nonostante immagino gli apparati di sicurezza siano al loro massimo di operatività? Che cosa sta continuando a sbagliare la Francia, se questo sta avvenendo? No, ma infatti io non sono molto sicuro di condividere l'opinione, la connotazione data prima di un fallimento da parte dell'intelligence francese in questo caso specifico. Chiaramente ne sapremo di più nei prossimi giorni su cosa è successo esattamente, ma il fatto che l'attentatore fosse conosciuto, dinamica già vista nelle ultime settimane a Stoccolma, a Londra, in quasi tutti gli attentati, l'attentatore è sempre conosciuto, non è di per sé un fallimento dell'intelligence. Cioè, cosa pretendiamo che l'intelligence francesi o europei in generale facciano? Arrestino soggetti che sono noti come estremisti ma che comunque non hanno compiuto nessun comportamento penalmente rilevante, che ci siano detenzioni di massa di soggetti solo perché radicalizzati? Certo. Viviamo in società democratiche, in stati di diritto, e quindi l'intelligence può monitorare soggetti che sono noti come radicalizzati, ma non li può arrestare, non li può far fuori, non stiamo in dittature medio orientali dove ciò avviene. Quindi è difficile connotare come fallimento. La Francia poi si trova in una situazione particolare nella quale ci sono circa 20.000 soggetti noti all'intelligence come radicalizzati, e quindi possiamo capire che monitorare 20.000 soggetti è assolutamente impossibile, cioè nessuno ha delle risorse, per quanto l'apparato antiterrorismo francese, con tutti i suoi difetti che sono venuti fuori negli ultimi anni, assolutamente hanno compiuto molti errori, c'è stata una riorganizzazione interna sbagliata, una serie di errori lunghissima. Detto ciò, rimane una delle intelligence migliori d'Europa, ma non può controllare 20.000 soggetti. Probabilmente non si può fare. Certo, probabilmente Vidino bisognerebbe forse fare uno sforzo maggiore, ma ripeto, non sono io ad avere la titolarità per dire questo, però nell'accesso alle armi, in tutti questi attentati, sempre armi da guerra, evidentemente, forse è quello il punto in cui l'intelligence potrebbe e dovrebbe fare di più. Sì, però rendiamoci conto che anche lì è molto molto difficile, comunque esiste un mercato nero di armi, insomma in Francia come pensiamo anche in Italia, non è poi così difficile trovare un'arma. Certo. In Italia, e poi comunque la maggior parte degli attentati in giro per l'Europa non sono stati fatti con armi, Stoccolma, Nizza, sì, Londra, certo, con veicoli, i camion, sì, certamente. Coltelli, di tutto, abbiamo visto di tutto. Indubbiamente, certo, prevenire l'accesso a certe armi, alle armi è importante, questa è una dinamica negli Stati Uniti, fondamentale, assolutamente. Gli attentati visti negli Stati Uniti sono stati compiuti da soggetti che avevano accesso ad armi automatiche da guerra, è chiaro che è una follia. Vidino, brevemente, la Francia in questo momento paga qualcosa per il suo impegno in Medio Oriente, nello specifico la sua posizione in Siria, o questi attentati solitari sono sganciati dalle dinamiche geopolitiche? Secondo me è un insieme di motivi. Da una parte è una politica indubbiamente aggressiva francese in Medio Oriente, non è un caso che la Francia sia sempre prima o seconda nelle minacce dell'ISIS, è sempre tra America e Francia, sono i due paesi che ricorrono più spesso nelle minacce dell'ISIS. Il secondo fattore è quello di un contingente di foreign fighters o comunque di soggetti radicalizzati molto più alto che in ogni altro paese europeo. Ripeto, il dato dei foreign fighters è secondo me molto interessante, cioè ci sono 1700 francesi che sono andati in Siria a combattere, molti dei molti sono ritornati, in Italia quel numero è 110, certo. Numeri totalmente diversi. Grazie a Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University. Noi restiamo su temi legati al Medio Oriente, ci avviciniamo leggermente, andiamo in Turchia. Abbiamo con noi Marco Barbonaglia per parlare di Gabriele Del Grande. Buonasera Marco. Buonasera. Marco, quali sono le novità di giornata per quanto riguarda Del Grande? Oggi Gabriele Del Grande ha potuto incontrare la delegazione consolare, in particolare ha incontrato il console di Smirne Luigi Iannuzzi e ha incontrato anche per la prima volta il suo avvocato, un legale turco, Taner Kilic, che dopo questo incontro che è avvenuto in mattinata ha detto che Gabriele è in isolamento da 9 giorni, ha detto che a suo avviso la detenzione è del tutto illegale perché ha detto non c'è nessun impedimento giuridico al rimpatrio e ha definito il provvedimento punitivo. Dopodiché ha aggiunto, abbiamo chiesto di vedere il dossier di Gabriele, ci è stato negato, e il direttore del centro al momento non ha alcuna informazione riguardo a una sua possibile espulsione. Sappiamo che Gabriele Del Grande è in sciopero della fame, a questo proposito il legale ha detto in questo momento vuole soltanto essere liberato e tornare in Italia. Ora, per quanto riguarda il provvedimento di espulsione, era stato detto anche dall'ambasciata che ci sarebbe un provvedimento di espulsione in atto. Il problema è che non si riesce a vedere chiaramente cosa sta accadendo. Perché? Perché Del Grande è in uno stato di fermo amministrativo. Questo fermo amministrativo, se noi parlassimo di fermo di polizia in stato di emergenza, come è in Turchia ormai dal 20 luglio dell'estate scorsa, cioè questo stato di emergenza dopo il tentativo di golpe, un fermo di polizia può durare fino a 14 giorni. Trattandosi di un fermo amministrativo, paradossalmente la situazione è più complessa, più nebulosa, non si riesce a capire bene quale tempistiche potrà avere e quale tipo di evoluzione potrà avere. Qualche segnale oggi direi positivo c'è stato, nel senso, oltre all'incontro naturalmente che è ovviamente positivo, c'è stato anche l'ambasciatore turco a Roma, Murat Selim Esenli, che ha invitato il padre di Gabriele, Massimo Del Grande, a Roma per parlargli e ha parlato di una collaborazione con le autorità italiane e di un impegno che ha definito anche intenso e sincero a risolvere questa soluzione. Quindi insomma qualche segnale pur timido. La situazione è abbastanza complessa, però come dicevi Marco, ci sono dei timidi segnali positivi. È già positivo comunque che sia andato il console italiano a trovare Gabriele. Sentiamo allora il console italiano a Smirne, Luigi Iannuzzi, ai microfoni del TG3. Allora, Gabriele sta bene, abbiamo avuto modo di incontrarlo a lungo questa mattina, di parlare con lui, di verificare che le sue condizioni sono buone. Quando lo rilasceranno? Questo non lo sappiamo, quello che sappiamo è che stiamo continuando con il nostro lavoro diplomatico per fare sì che si possa arrivare il prima possibile a un esito favorevole della vicenda. Queste le parole del console italiano a Smirne, possiamo ascoltare anche il papà di Gabriele, Massimo Del Grande. Noi ci aspettiamo tanto, ma questo ci aspettiamo da diversi giorni, che sia rimandato via quanto prima, perché siamo convintissimi, certi, che Gabriele era lì per prendere delle notizie. Ora, magari loro non condividono, però non mi sembra un motivo per trattenerlo così e così a lungo. Ecco Marco Barbonaglia, in chiusura del tuo intervento, l'atteggiamento delle autorità turche nei confronti di Del Grande è diverso ora che vi è stato anche questo referendum pro Erdogan, o sarebbe stato lo stesso anche mesi fa nel periodo pre-golpe? Allora, è difficile dare una risposta precisa a questa domanda, nel senso che normalmente il procedimento è diverso da questo. Normalmente, per i casi che io ho visto qua in Turchia, normalmente in un caso di espulsione dopo qualche giorno, 3, 4, 5 giorni massimo, si viene espulsi dal paese. Quindi in questo caso c'è qualcosa di diverso. Sappiamo soltanto per ora che Del Grande, a quanto ci dicono, si trovava in una zona, ci sono delle zone in Turchia dove non si può accedere senza alcuni permessi particolari, altre dove è proprio vietato l'accesso. Sappiamo che lui si trovava nella provincia meridionale di Hatay, vicino al confine con la Siria, dicono in una zona dalla quale non si può accedere, certo. Perché chiaramente poi in Siria c'è la guerra. Però normalmente le procedure sono diverse, cioè normalmente in questi casi, anche se non si hanno i permessi o se addirittura la zona è proprio completamente off limits, si viene in genere in pochi giorni si viene espulsi, quindi questa procedura sta andando, quello che posso dire, molto più per le lunghe del solito. Il referendum c'è anche appena stato, quindi è difficile dire se possa avere inciso. Direi di no, nel senso che questa procedura è iniziata prima del referendum. Certo. Va bene, grazie a Marco Barbonaglia, noi ci fermiamo. Yeah. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Attentato a Parigi, il killer non era schedato come islamista, già arrestato a febbraio era stato poi rilasciato. La paura del terrorismo sulla campagna elettorale per l'Eliseo. Comportamento non etico, medico antivaccini radiato dall'ordine, il Consiglio di Stato legittimo l'obbligo dei vaccini a scuola. Del Grande incontra la delegazione italiana, detenzione del tutto illegale, dice l'avvocato turco. Targa Florio, gravissimo incidente, 2 morti, gara sospesa. Serie A verso la Moviola in campo della prossima stagione, Champions va bene alla Juve che in semifinale trova il Monaco. Questi gli effetti sonori del motorsport più amato, almeno in Italia, per chi segue la targa Florio, una delle corse di motorsport più antiche. Purtroppo alla seconda giornata di questo bellissimo rally vi è stato un lutto, l'abbiamo ascoltato nella prima parte del nostro GR, 2 i morti, gara annullata, e si dice che il fatto tragico sia stato causato dal maltempo, chi dice invece da problemi alla vettura. Noi abbiamo avvicinato allora il direttore di gara Marco Cascino, direttore di gara proprio della targa Florio, e abbiamo chiesto delucidazioni proprio sulla dinamica di quanto avvenuto. Marco Cascino. No, ancora non abbiamo ricostruito la dinamica, perché la zona di incidente ci è stata interdetta, perché ci sono ancora tutti i rilievi da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Ecco, in base alla vostra esperienza e anche dalle notizie che sono comunque circolate, a cosa potete imputare la tragedia che è avvenuta? No, noi in questo momento non siamo in condizioni di poter imputare a nessuno nessuna problematica dell'accaduto e dell'incidente. Ovviamente aspettiamo adesso gli esami che verranno sottoposte le vittime, gli esiti della perizia da parte delle forze dell'ordine. Certo, mi scusi se insisto su questo aspetto qui, allora dalle indiscrezioni, ci fermiamo a questo, da una parte si punta il dito sul maltempo e dall'altra non si riesce ancora a capire chi fosse alla guida. No, chi era alla guida era sicuramente Mauro Amendolia. Mentre la figlia era seduta nel sedile di destra. Per quanto riguarda le condizioni meteo, nel momento in cui è partito già erano normalmente migliorate, infatti il fondo stradale era soltanto leggermente umido. Cascino, una manifestazione così importante che purtroppo in virtù di quanto accaduto è stata annullata, vogliamo ricordare però l'importanza della targa Florio e cosa rappresenta per il motorsport italiano? Certo, Targa Florio è la gara più antica del mondo, quindi non soltanto la gara più antica del panorama italiano, quindi è la storia dell'automobilismo. Dispiace per quello che si è accaduto e sicuramente siamo vicini alle famiglie delle vittime. Sul fronte della sicurezza molto è stato fatto negli anni, cosa si può fare ancora secondo lei di più per evitare che accadano poi questi fatti? È chiaro che è sempre migliorabile la situazione della sicurezza e delle prestazioni attive e passive sulle strade, però ricordiamoci che stiamo parlando di rally, di gare che si svolgono sempre sulle strade che normalmente noi percorriamo tutti i giorni, quindi questa è la tipologia della stazione, questa è la situazione. Ecco, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, magari per chi non è così attento alla rally, che la Targa Florio è a tutti gli effetti una manifestazione competitiva e non di dimostrazione. No, è infatti una competizione agonistica iscritta al campionato italiano e al campionato internazionale dei rally. Ecco Cascino, non la trattengo oltre, a cosa si può pensare in questo momento, da dove si può ripartire? Niente, adesso dobbiamo un attimino fermarci per stare vicino alle famiglie e poi vedremo più avanti come riprendere tutto. Come riprendere tutto per quanto riguarda il futuro della Targa Florio? Sicuramente vi è un futuro per questa manifestazione così importante. Noi cambiamo argomento. Ricorderete l'attentato, il tentativo di attentato al pullman del Borussia Dortmund, della squadra di calcio tedesca, poco più di una settimana fa. Si è parlato prima inizialmente di una pista terroristica, alla fine si è scoperto che l'attentatore del pullman non è un terrorista, avrebbe tentato una speculazione sul titolo della squadra, quindi puntava a far crollare le azioni per poi guadagnarci sopra. Non parliamo dell'aspetto di cronaca, ma ci interessa approfondire l'aspetto finanziario. Lo facciamo con Enrico Malverti, analista finanziario, esperto di trading. Buonasera Malverti. Buonasera. Malverti, allora, questo fatto di cronaca lo possiamo prendere come un esempio per un esempio abbastanza originale e purtroppo negativo per chi cerca di interferire sul mercato azionario. È la prima volta che sente un fatto del genere o si ricorda episodi non uguali logicamente ma assimilabili? In tempi recenti, per fortuna, non ricordo episodi analoghi di tentativi di manipolazione attraverso un attentato di una singola persona che avesse intenzione di speculare su un singolo titolo azionario. Però episodi di aggiottaggio, purtroppo, perché così si chiama questo certo tipo di reato, sono piuttosto frequenti sui mercati finanziari. Ce ne sono di vari tipi, in Italia tra l'altro è un reato penale sanzionato con 3 anni di galera, al di là del fatto dell'attentato in sé, per il semplice fatto di provare a turbare il mercato finanziario, mettendo, divulgando notizie false, esagerate, tendenziose, oppure adoperando altri artifici, come dice il codice civile, atti a causare un aumento o una diminuzione, certo, del prezzo delle merci. Ecco, Malverti, ma in questo caso il titolo del Borussia come ha reagito? Il titolo è sceso effettivamente di prezzo perché la notizia del ferimento di un giocatore e la notizia in sé dell'attentato che poteva mettere a rischio la squadra di calcio ha provocato, certo, in effetti un ribasso nell'andamento dei prezzi e quindi è stato parzialmente raggiunto l'obiettivo dell'attentatore. Quindi di fatto quando ci sono questi eventi non c'è modo di difendersi da chi prova a turbare il mercato in questa maniera, evidentemente si può intervenire solamente a posteriori. Purtroppo l'unico modo che c'è per difendersi da parte degli investitori è quello di diminuire il rischio dei propri investimenti attraverso la diversificazione oppure attraverso strumenti finanziari che consentono di mettere in pratica quello che viene chiamato hedging, cioè copertura del rischio, però sono già strumenti per una clientela abbastanza evoluta. Quindi ecco, ricordiamo che comunque l'aggiotaggio è un reato e diceva fino a 3 anni. Sì, 3 anni di carcere e oltre a questo, spesso e volentieri, oltre all'aggiottaggio si accompagna anche l'insider trading, che è un altro tipo di reato che consiste nell'abuso di informazioni privilegiate da parte, ad esempio, di amministratori che in virtù della propria posizione detengono informazioni riservate e le utilizzano a scopo di raggiungere un profitto prima degli altri operatori. Grazie, molto chiaro. Grazie ad Enrico Malverti, analista finanziario, esperto di trading, e noi ci fermiamo. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Attentato a Parigi, il killer non era schedato come islamista, già arrestato a febbraio era stato poi rilasciato. Comportamento non etico, medico antivaccini radiato dall'ordine, il Consiglio di Stato legittimo l'obbligo dei vaccini a scuola. Del Grande incontra la delegazione italiana, detenzione del tutto illegale, dice l'avvocato turco. Targa Florio, gravissimo incidente, 2 morti, gara sospesa. Serie A verso la Moviola in campo dalla prossima stagione, Champions va bene alla Juve che in semifinale trova il Monaco. Yes, Monaco. So AS Monaco. AS Monaco, it's the host of the first leg in the semifinal against. Tell us please if the draw was correct. Everything was prepared properly. E questo che stiamo ascoltando è il sorteggio che per alcuni, forse per la maggior parte degli intenditori e degli esperti di settore, è stato un sorteggio positivo. Stiamo parlando di Champions League, stiamo parlando della Juventus. Ne parliamo noi con il collega Giovanni Capuano. Buonasera Giovanni. Come Vincenzo, buonasera. Beh, è andata bene, sì, dai. È andata bene, tu quindi stai dalla parte di chi dice che gli ha detto bene la Juve. Ma sai, il Monaco è l'assoluta sorpresa di questa Champions League e quindi non va sottovalutato, ma credo che la Juventus non commetterà questo errore perché arrivati a livello delle semifinali non si può sottovalutare nessun avversario. E però l'alternativa erano le 2 squadre di Madrid che sono in semifinale, il Real, questa è la 7ª edizione consecutiva, e l'Atletico Madrid che ha fatto 2 finali negli ultimi 3 anni e alla 3ª semifinale nelle ultime 4 stagioni. Quindi stiamo parlando evidentemente di squadre di un livello superiore rispetto al Monaco e soprattutto di squadre che hanno l'abitudine a giocare queste sfide, quindi certamente erano 2 avversarie più difficili da pescare, e alla Juventus è andata oggettivamente bene, è andata bene anche nell'alternanza partita in casa, partita, certo, in trasferta, perché è un vantaggio anche poter giocare la prima partita in trasferta. Poi certo Allegri dovrà costruirsi tutto in campo e questa sarà una partita profondamente diversa dalle 2 che abbiamo visto con il Barcellona, perché il Monaco è una squadra molto diversa dal Barcellona, che è stato eliminato dalla Juventus, è una squadra giovane, è una squadra che forse non ha esperienza, ma è una squadra che ha grandissima freschezza, entusiasmo, corre molto, corre veloce, ha una delle stelle del futuro che è Mbappé, che ha fatto 5 gol nelle prime 4 partite della seconda fase di questa Champions League ed è un classe 1998, però i presupposti per andare alla finale di Cardiff del 3 giugno ci sono tutti. Ecco, quindi ricordiamo, abbiamo evitato, la Juventus ha evitato Real Madrid e Atletico, che quindi si incontreranno, dicevi, per la terza volta in 3 anni, se non sbaglio. No, è la quarta, perché si incontrarono anche in un quarto di finale, ormai è diventato un classico questa sfida nella Champions League. Hanno fatto 2 finali, tra l'altro concluse tutte e 2 con vittorie del Real Madrid, ma assolutamente beffarde, perché a Lisbona, agli ultimi minuti, certo. A Lisbona nel 2014 al 93esimo vinceva l'Atletico Madrid, poi è finita 4-1 i supplementari per il Real. L'anno scorso a San Siro vinse il Real Madrid ai calci di rigore, ma nei 90 minuti l'Atletico sbagliò un calcio di rigore con Griezmann, e quindi la voglia di rifarsi dell'Atletico evidentemente è tantissima, anche se poi nel doppio confronto giocato invece con una gara di eliminazione a data e ritorno passò l'Atletico Madrid, e quindi anche questa è una cosa di cui tenere conto, certo. Perché Simeone tradizionalmente è un allenatore che è sempre stato ostico per Barcellona e Real Madrid, che sono le due grandissime di Spagna. L'Atletico di Simeone è una grande di Spagna e si è conquistata questi galloni sul campo nelle ultime 4 stagioni. Comunque, Giovanni, è vero che ogni partita va giocata, ma la Juventus vista contro il Barcellona credo non debba temere né il Real Madrid né l'Atletico e tantomeno il Monaco. Guarda, era la notizia di questo sorteggio. Solitamente ci si approccia al sorteggio dai quarti di finale in poi con timore, perché evidentemente la pescata può decidere il futuro di una squadra. Oggi i tifosi, i giocatori della Juventus, Allegri, erano sereni, perché comunque avesse pescato la Juventus sarebbe probabilmente entrata nella doppia sfida da favorito. Poi certo, un conto è incontrare il Real Madrid, un conto è pescare l'Atletico che era temutissimo, un conto è prendere il Monaco. Quindi noi questa sera non possiamo dire che la Juve non sia andata benissimo, resta poi tutta una qualificazione che è da costruire, perché a certo. Questo livello è la coppa dei dettagli, e nei dettagli spesso è facile perdersi anche quando sei favorito. Altre due notizie di giornata per quanto riguarda il calcio: si andrebbe verso la moviola in campo dal prossimo anno, così almeno annuncia Nicchi, che se non sbaglio è il presidente degli arbitri, anche se aspettiamo l'International Board. E sì, è così, Giovanni, o è solamente un annuncio? No, probabilmente sarà così, nel senso che l'Italia è stata tra le primissime a iniziare la sperimentazione all'inizio di questa stagione. Già nei mesi scorsi il Rosetti, che è un ex arbitro internazionale italiano, che è il capo della sperimentazione in Italia, molto ascoltato dalla FIFA e dall'International Board, aveva fatto capire che in Italia si stavano facendo passi da gigante. Quindi non si partirà probabilmente come doveva essere nella stagione 2018-2019, ma l'intenzione è di chiedere all'International Board di cominciare già adesso. In giro qualche esperimento c'è già stato, sì, online, sì. Abbiamo visto nella fase finale del mondiale per club, succede in Olanda, insomma ci sono delle situazioni in cui già la moviola in campo esiste, e quindi è anche possibile che la FIFA accetti di far partire la Serie A con un anno di anticipo l'anno prossimo, con un'avvertenza però che devono tenere in mente tutti: nei primi 7 mesi di sperimentazione offline i casi in cui la moviola in campo sarebbe intervenuta nella sperimentazione non arrivano a 10. E tanto per prendere un esempio di una partita recentissima che ha fatto molto discutere questa settimana, la semifinale fra Real Madrid e Atletico, con 6 episodi clamorosi che insomma tutti hanno capito essere errori o comunque interpretazioni sbagliate, voi dovete sapere che la VAR, la Video Assistant Referee, o la moviola in campo, come volete chiamarla, di quei 6 episodi sarebbe potuta intervenire soltanto in 3, perché poi non dobbiamo aspettarci che con la moviola in campo gli errori siano cancellati. Che però tutti. Ad Ancelotti sarebbe stato sufficiente, immagino io. Ad Ancelotti visto sarebbe stato sufficiente. Lamentele. Ma se ci illudiamo che sparisca l'errore, spariscano le polemiche, facciamo un Giovanni, errore noi. Brevemente, Tavecchio commissario della Lega, cosa vuol dire? Vuol dire che per 6 mesi il calcio avrà qualcuno fuori dai giochi intendiamo dei club, che deve riscrivere le regole. La Lega Calcio non è nient'altro che l'associazione delle 20 società di Serie A, che fondamentalmente come compito numero uno, oltre a organizzare i campionati, deve spartirsi un miliardo di diritti TV. Siccome non si mettono mai d'accordo, perché le regole funzionano come un condominio, quindi ci vogliono sempre maggioranze qualificate, non hanno fatto l'elezione del nuovo presidente. Bene. Arriva Tavecchio, ha 6 mesi di tempo per scrivere nuove regole e poi consegnare la Lega Calcio ha un manager che possa traghettarla nel futuro. Grazie. Grazie a Giovanni Capuano. Noi ci proiettiamo verso il fine settimana e soprattutto verso il lungo ponte del 25 aprile, quindi ci interessa molto sapere come sarà il meteo e lo chiediamo a Paolo Corazzon di 3B Meteo. Buonasera Corazzon. Buonasera Vincenzo, ma guarda, tutto sommato buone notizie, perché partiamo dal discorso temperature che nei giorni scorsi sono diminuite, ecco, saliranno, si starà bene davvero in tutta Italia, raggiungeremo punte anche di 24-25 gradi, quindi il freddino di questi giorni ce lo lasciamo alle spalle e in più sole. Tanto sole, domani e dopo due giornate splendide da nord a sud, lunedì arriverà qualche temporalino sulle Alpi e le Prealpi, ma davvero poca roba, martedì, ultima giornata del ponte, ecco, dal pomeriggio nubi in aumento al nord, in effetti poi mercoledì pioverà sulle regioni settentrionali, quindi nella seconda parte di martedì arriva un primo peggioramento, però gran parte del ponte, ripeto, all'insegna del sole e delle temperature più che gradevoli. Ecco, soprattutto quest'ultime ci interessano, visto che noi trasmettiamo da Roma e negli ultimi giorni ha fatto abbastanza freddo. Sì, non solo a Roma, è dappertutto davvero, ma saliranno in tutta Italia. Grazie a Paolo Corazzon. Effetto Notte si ferma qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta e un ringraziamento ad Andrea Roccabella e Alessandro Chiappini in regia, in assistenza al programma Cristian Goldoni. Buonasera.